Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica, gastronauti vicini e lontani. Ebbene, si avvicina a Ferragosto e oggi parleremo del Ferragosto, che in realtà vuol dire ferie augusti, quindi pensate da quanto tempo esiste il Ferragosto. E voleva dire riposo storico, quindi poi è cambiato durante il fascismo, addirittura è diventata una festa, gita di un solo giorno, venivano pagati chi voleva andare in giro per l'Italia, era un modo per conoscere l'Italia. Ma io mi sono sempre chiesto, ma esiste un pranzo di Ferragosto? E mi ero dato una risposta negativa, non ne avevo mai sentito parlare. Poi mi sono andato a documentare e ho scoperto che il mio compaesano Pellegrino Artusi addirittura ha un menù preciso. 15 agosto, sentite un po': riso con le quaglie o minestra di semolino composta, già c'è una bella differenza. Fritto, pasta siringa numero 183, fritto alla romana, umido, bue alla moda con tortino di zucchini. Tramesso, pollo in salsa tonnata, arrosto, pollastri giovani con insalata, dolci babà, dolce alla napoletana, spumone di tè, gelato di cioccolato. Ecco, io mi chiedo se a Ferragosto uno fosse costretto a mangiare tutto questo po' di roba, come farebbe poi alzarsi da tavola. E allora bisogna rendere un po', diciamo, queste abitudini, renderle un po' più moderne. Ma continuando nella mia ricerca ho scoperto che addirittura esistono delle tradizioni. Pensate un po', in Toscana, dall'epoca carolingia, Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Quindi era una tradizione carolingia e abbiamo così riscovato Carlo Martello. Ma poi ci sono altre tradizioni. A Roma il pollo in umido, poi le margheritine di Stresa come dolce e nell'Appennino Tosco Emiliano, che dovrebbe essere vicino alla terra mia, c'è un biscotto di mezzogiorno, non è quello della partita dell'altro di ieri, di qualche giorno fa, tra il Portogallo e la Svezia che hanno lasciato fuori l'Italia. Questo è un biscotto che si mangia veramente bene, quindi una tradizione veramente terrificante, nel senso era molto, molto pesante. Io non so come facessero a mangiare tutte queste cose, vuol dire probabilmente non c'era il sole. Allora cercheremo un po' di fare una nuova tradizione, perché secondo me il Ferragosto lo merita. Bene, io mi ricordo sempre di Ferragosto quello straordinario film che era Il Sorpasso, vi ricordate? Mangiavano abbastanza ma non così tanto. E allora io qui con me ho una serie di ospiti che piano piano vi presento e ne sentiremo anche alcuni che interverranno da fuori, che ci daranno la loro proposta. Allora ho Andrea Maurizio di Kissene Food, buona giornata ragazzi. Buongiorno Davide, buongiorno, ciao. Buon Ferragosto. Poi ho Daniela Zuccotti, che è una food blogger, ma non di cucina, è una food blogger di moda, la quale ci racconterà anche come va arredata la tavola, insomma come ci si veste anche durante il Ferragosto. E allora io vorrei cominciare un po' a parlarne un po' con i nostri ospiti, che sono due quasi cuochi, insomma, quasi. Ma avete pensato di rendere così bello, allegro e non pesante come ho raccontato io fino ad ora questo Ferragosto? No, assolutamente, con l'amica fashion blogger abbiamo tirato fuori qualche regola per il nuovo Ferragosto. Inizio io con innanzitutto basta con la plastica, cioè i piatti devono essere rigorosamente in ceramica e che ognuno si porti il suo piatto. Anche in spiaggia, ognuno se lo lavi, ognuno ha la sua piccola responsabilità, perché la plastica fa male al mare, all'ambiente. Esatto. Quindi cerchiamo di andare avanti un po' e di guardare avanti anche al futuro del pianeta, come sono responsabile. Esatto, poi la seconda regola che abbiamo scritto, Davide, è andate a sassatonnare tutto, a parte il vitello. Quindi siccome il vitello tonnato sembra quasi il piatto tipico perché è freddo, noi mettiamo da parte il vitello e sassatonniamo tutto, anche il tonno. tonnata e il tonno, ad esempio. Possiamo tonnare il tonno. Perché la salsa tonnata è buona anche con la faraona. Sì, infatti io ieri sera ho mangiato il coniglio tonnato. Hai visto? Hai visto. Sei già di tendenza. Da un ristorante che fra poco sentiremo. Continuate ragazzi, continuate. Io suggerisco basta canotta, una bella camicia che sta bene con tutto, anche con una bella macchia di sugo, magari cucinando un gazpacho si potrebbe così. E quindi prepariamolo questo gazpacho, però in una versione un po' diversa, cioè prendiamo i pomodori e un po' di avocado e ci mettiamo anche l'anguria, che è perfetta e dà dolcezza, e con l'anguria ci facciamo anche un bel belli, no non è un belli, no, non è un belli, è un paolini, chiamiamolo. Spumante e anguria frullata per iniziare il pranzo. Queste sono alcune delle nostre regole che ci siamo inventate. E poi avete anche molte altre sorprese? Assolutamente sì. Ma io invece vi dico che il mio Ferragosto è panino col cotechino e per finire panettone. Ecco. Allora, devo riconoscere che la tradizione del panino col cotechino è nel Mantovano, alle Grazie, è una festa storica di centinaia di anni, e in questo comune, in questo borgo vicino a Mantova, da sempre si celebra il Ferragosto con il cotechino e il panino, quindi non è un'invenzione di oggi, è un'invenzione vera. E posso raccontare anche un aneddoto, che un po' di anni fa con alcuni miei amici mantovani, eravamo in vacanza in Sardegna, ci siamo presentati il giorno di Ferragosto sotto l'ombrellone, loro col panino, il cotechino, io col panettone, e immediatamente è stata chiamata l'ambulanza, ovviamente dai villeggianti vicini, perché pensavano veramente che fossimo fuori di testa. Invece celebravamo due tradizioni molto forti. Ma continuate. Allora, un'altra bella regola è che non si fa più il riso freddo, lasciamo da parte il riso, scopriamo i cereali, ok? Quindi facciamo i cereali, insalate di cereali che fanno bene alla salute, allo stomaco, e soprattutto anche, scusa, la pasta fredda. Pasta fredda e cereali freddi. No, non gli spaghetti con il... No, quella no, Davide, anche caviale. Se la volevo dire, no, sì, ma sì, non posso anche dirlo. Se volete una ricetta di Marchesi, ecco. Prendete delle uova di lompo, no, perché il caviale costa caro, e fate dei spaghetti raffreddati con il burro, e poi metteteci le uova di lompo e l'erba cipollina. Vi assicuro che è un piatto incredibile, ecco, da mangiare sotto l'ombrellone. La versione estiva è di sostituire il burro con l'olio d'oliva, perché diventa molto molto più leggero, quindi versione estiva è questa. E a proposito di leggerezza, finito di mangiare, andate subito a fare il bagno, perché la digestione parte dopo 2 ore, quindi sì, non è vera questa cosa. E se invece i nostri radioascoltatori fossero in montagna? Fate il bagno nel fiume. Esatto, in un bel torrente ghiacciato. Ma ci sono particolari costumi per quest'anno di moda? Allora, i bermuda si portano molto, bermuda con la camicia, come abbiamo detto, le scarpe dimentichiamole, ma forse se siamo sui sassi in montagna non è facilissimo. Io consiglio di usare il pareo come tovaglia, perché basta con queste tovaglie a quadretti, cerchiamo un po' di sbizzarrirci. Quindi doppio uso. Doppio cioè, uso. Uno appena finito di mangiare, ovviamente si mette il pareo. Si prende subito il pareo, si sparecchia e si corre subito a fare il bagno. Quindi immaginati che eleganza quasi 3.0, pareo e stoviglie di ceramica, bellissimo. Ecco, ora tenetevi pronti perché continueremo, io passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, non scappate, perché il Ferragosto è vicino, mancano pochi giorni, e vi daremo altri consigli che potrete utilizzare e far bella figura con i vostri amici. Linea alla regia. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, cari gastronauti che siete magari in viaggio. Se siete in viaggio, fermatevi, prendete penna e appunti e scrivete tutto quello che vi raccontiamo, perché così potrete fare un grande figurone il giorno di Ferragosto. Prima di passare ancora la parola a Andrea e Maurizio di Kissene Food, io direi di sentire, e poi con voi continueremo sugli altri piatti, sentire uno chef, un cuoco brianzolo, il quale è aperto tutti gli anni al Ferragosto e non scherza col menù. Buongiorno Antonio, patron chef del Cenacolo dei Pittori di Villa Raverio. Buongiorno Antonio. Buongiorno Davide. Antonio, allora, tu di Ferragosto sei sempre aperto. Sì, praticamente 50 anni che noi a Ferragosto siamo aperti. Porco. E avete gli stessi clienti ogni anno? Prego? Avete gli stessi clienti? Sono gli stessi clienti? Sì, diciamo che sono quasi sempre gli stessi clienti, sì. E allora... cambia il menù, ma i clienti sono sempre quelli, più o meno. Allora, raccontami il menù di quest'anno, dei prossimi giorni. Guardi, faremo la cassola, perché ormai è tradizione fare la cassola per agosto. La cassola, ragazzi, scusa un momento, avete sentito? È un grandissimo, sì, colpo di scena questo. Bene, la cassola, ma la fai col maiale o con le costine? No, col maiale e le verde. La difficoltà è trovare le verde a Ferragosto che vanno bene per fare la cazzuola. Poi le congeliamo e facciamo la cazzuola con le verde congelate. Quindi le verde le tieni d'inverno e le metti, poi le congeli e sono pronte. Esatto. Però non hanno quel colpo di freddo, di gelo. Però bisogna adattarsi un po' a quello che è il problema delle verde quest'anno. Con tutto questo caldo è difficile anche averle d'inverno, le verde giuste per fare la casera. Ho capito. Sai, per il minestrone, se la verza nera non ha preso una botta di freddo, non è granché. Ma andiamo avanti. Quindi sì. tu inizi con la cassola o prima c'è un antipasto? No, faremo magari un paio di antipastini, due o tre antipastini, tipo, non so, un po' di polenta liquida con la luganega e gli spinaci, o se trovo del pesce di lago giusto, magari un luccio alla mantovana. Ecco, tu sei un grande pescatore di lago, sì. Ma in questo periodo si può pescare, o anche questo è pesce che tu hai già pescato? Io stamattina ad esempio ho preso dei lavarelli belli che passano tutti il chilo, difatti adesso stavo ritornando a pescare ancora. Ah, bene, allora andiamo avanti, cassola, poi? Cassola, magari un risottino, non so se c'è pesce persico, o un risotto con le ortiche, se riesco a trovarle giuste, perché ormai con questa storia di diserbanti così si fa fatica anche a trovare le ortiche giuste, piccoline, appena nate, per fare il risotto. Ma dai un'alternativa al primo piatto? Sì, immagino di sì. Sì, magari facciamo dei tortelli di ricotta e pecorino, un risotto, una pasta magari dei rigatoni con pomodorini freschi, melanzane burrata. Bene, spero che sia finito. No, di secondo magari, non so, una tagliata di scottona, una scottona all'inglese, facciamo un menù più poca ma alla carta, diciamo, così uno può svariare. Magari delle crepinette di Faraona, che sono delle polpettine di Faraona che vengono racchiuse nella reticella di maiale e cotte al forno. Senti Antonio, tu fai degli ottimi dolci, ci vuoi raccontare la tua zuppa estiva, zuppa inglese estiva, che è il tuo pezzo forte? La zuppa inglese estiva è un pan di Spagna molto sottile, imbevuto nell'Ikermes, con aggiunta di gelato al cioccolato e gelato alla vaniglia bagnato con un po' di rum. È racchiusa fra tre strati di pan di Spagna, esatto. E un'alternativa alla zuppa inglese? Alla zuppa inglese in alternativa faremo un gelato di panettone. Ah, con colpo di scena. Un gelato, difatti il panettone lo faccio tutti gli anni a Ferragosto. Ah, dimmi, fai un gelato di panettone. La difficoltà era trovare il panettone, però adesso gli ultimi 2-3 anni non è difficile, perché ci sono diverse pasticcerie che lo fanno. Per cui farò un gelato di panettone con delle sfoglie di panettone ripassate in forno, caramellate, con della crema pasticcera alleggerita con un goccio di panna. Bene Antonio, bravo, ti ringrazio. Anche tu hai un menù molto leggero. Comunque, quindi, se ci sono ancora posti a disposizione, i nostri radioascoltatori possono prenotare. Ripeto il nome: Cenacolo dei Pittori, Villa Raverio in Brianza, è vicino a Carate Brianza. Non facile da trovare, però è un posto, è una trattoria che vale la pena, dove ci sono dei quadri alle pareti di grande valore, perché il padre di Antonio aveva tra i clienti moltissimi pittori, i quali invece di pagare il conto lasciavano dei quadri, e ora veramente c'è una galleria molto interessante. Ma io voglio chiedere a Daniela, come lo vestiamo questo che va in Brianza a mangiare il giorno di Ferragosto? Daniela, come lo vestiamo? Allora, gli mettiamo le scarpe, perché non possiamo lasciarlo libero come... assolutamente comodo, perché deve mangiare abbondantemente, esatto, quindi... Io torno a ripetere che con la camicia non si sbaglia mai, anche perché magari di una taglia in più quando alla fine ha finito il pranzo, insomma, non si vede quello che non saltano i bottoni, questo è importante. Però Ferragosto, dieta mia, non ti conosco, assolutamente abbandonate almeno per un giorno le rigide regole alimentari che vi imponete d'estate. Ma come, come stiamo vedendo, i modelli del pranzo di Ferragosto non sono assolutamente di dieta. Assolutamente. Io continuerei con un bel il cappello di paglia, secondo me si può portare sempre. Anche in Brianza, sì, perché comunque è estate, fa freschetto, una passeggiatina poi per digerire, per cui il cappello di paglia lo terrei. Ecco, non andate in un campo con il cappello di paglia, sennò sembrate degli spaventapasteri. Ma noi vi avevo interrotto sul vostro menù, possiamo continuare? No, assolutamente. Io volevo aggiungere una cosa, che questo tuo chef fa la cassola d'estate, ma c'è anche un altro chef, nel corso della mia esperienza ho provato a mangiare la ribollita d'estate, soltanto che al posto di mettere il cavolo nero mette le ali. E quindi era una cosa interessante, un tale Marco Stabile, chef toscano. Beh, chef di Firenze, presidente dei Jeunes Restaurateurs, un personaggio importante. Dire. E comunque il nostro menù si ferma a metà con un sorbetto scorretto, che vorrebbe dire il sorbetto, base sorbetto, con un goccio del vostro amaro preferito, non diamo dei nomi, e una polverina di caffè solubile sopra, che aiuta a digerire, perché come abbiamo capito Ferragosto è abbastanza impegnativo dal punto di vista alimentare. Sì, dopo andremo al mare in un posto importante, non proprio al mare, perché andremo a Pietrasanta, ma andremo a sentire un famoso locale cosa ci racconterà del pranzo di Ferragosto. Quindi una mazza caffè, mi sembra di capire, con l'amaro. Assolutamente. Spiegalo Andrea. No, perché Mauri sembra, lui è il filosofo, sì, del cibo, io magari sono un po' più concreto. Ecco. È praticamente Diamo la ricetta. Prendete nota. Si compra, scusa Davide, ma devo dirlo, la base del sorbetto che c'è ormai, si trova, si mette un amaro, quello che più piace alla gente, quello che vuoi dopo che sei pieno, dopo che sei sfatto di cibo, ok, e si corregge poi con la polvere al caffè, quindi è il caffè che corregge il sorbetto. È un po' strano, Davide, sei un po' perplesso, ma no, fidati, è buono, buono. Bene, diciamo che siamo quasi dobbiamo passare la linea alla regia, ma volevo risentire un discorso, diciamo, di vestiti, volevo capire, ma questo pranzo che ci hanno raccontato questi due personaggi, si può andare anche vestiti elegantemente o no? Noi ci siamo immaginati questo pranzo in pineta, dove si può, diciamo che sei vicino alla spiaggia per fare il bagno con la pancia piena, però sei anche un po' a riparo dei pini per... Bene, ora poi ci racconterai come vestivamo la marinara lì nella regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito, e se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema, ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata. Oggi alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Il Falco e il Gabbiano si sdoppia dalle 15 alle 16 e dalle 22 alle 23. Le storie più emozionanti, quelle che avete scelto voi. Un mese da passare assieme, un colpo d'ala lungo quanto un'estate. Storie di vite straordinarie. Il Falco e il Gabbiano, dalle 15 alle 16, dalle 22 alle 23. Naturalmente su Radio 24. Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Luna di città d'agosto che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena mentre sei girata verso il mare in questa nottata serena. Le città un tempo, il giorno di Ferragosto, erano completamente vuote. Oggi un po' meno, credo che molti possano essere in viaggio, siano in viaggio oppure rimangano a casa. Sempre di più le città sono piene di gente, quindi è difficile trovare da mangiare a Ferragosto perché molti ristoranti sono chiusi, ma quest'anno a quanto pare molti rimarranno aperti, soprattutto a Milano. Poi se non saranno aperti in città, basta andare all'Expo e lì si troverà un po' di tutto. Ma noi continuiamo perché eravamo arrivati un po' al costume, al come dovrebbe vestirsi chi va in Pineta a fare il pranzo di Ferragosto. Sentiamo. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo detto che ci mettiamo il cappello di paglia. Se siamo appunto per gli uomini, la camicia, magari mettiamoci pure la pochette e sotto il costume, perché deve essere un giorno di riposo, quindi eleganza ma non troppo, anche comodi. Il pareo tutto fare lo tiriamo via dalla tovaglia e nel caso ce lo mettiamo sotto la camicia, lo stendiamo per riposarci. Uomini, scordatevi i sandali, lasciate a casa le ciabatte, lasciate a casa e i anche, sandali e anche l'infradito, piedi nudi o se no copriteli. Per le donne una bella gonna vaporosa. Le donne comunque possono permettersi sempre tutto perché sono sempre un po' più anche più perché paga il marito, quindi paga il marito. Permettersi tutto. Esatto. Paga il marito o il non marito quando non ti sposa, che è un non marito. E cos'altro possiamo fare? L'abito bermudato l'abbiamo detto, abbiamo detto il bermuda, ma volendo possiamo anche abbinarci una giacca perché Ferragosto è il giorno in cui non ci sono regole ferre. Ora Daniela, preparati perché andremo in un ristorante a Pietrasanta. Ormai Pietrasanta è diventata una città culte, quindi diciamo che magari è anche elegante di sera Pietrasanta. Forse a mezzogiorno per il pranzo no, ma prepariamoci un po' per la sera. E mentre ascoltavo questa bellissima canzone di Jovanotti mi è venuto in mente un film magnifico di Roma abbandonata il giorno di Ferragosto, che era Deserto Rosso di Antonioni, un film straordinario di questa città vuota. E devo dire che consiglio, io ho passato un Ferragosto a Roma e il giorno di Ferragosto poter viaggiare in questa città se c'è poco traffico è una cosa meravigliosa, con tutte queste fontane in cui ci si può fermare, bere e lavarsi la faccia. Veramente mi ricordo uno straordinario Ferragosto, un po' meno a Milano dove era difficile trovare dei luoghi aperti. Ma ora andiamo a Pietrasanta da Filippo Di Bartola. E è un ristorante diciamo noto perché appunto Pietrasanta è diventato ormai una città cult, e voglio chiedere a Filippo se c'è una tradizione del pranzo di Ferragosto, ma io credo più la cena di Ferragosto. Filippo, è così? Sì, intanto salve a tutti e grazie dell'invito. Allora sì, Davide, c'è una ferrea tradizione a Pietrasanta per quello che riguarda Ferragosto, perché c'è un piatto che vince su tutti, che viene proposto un po' diciamo in maniera univoca dalla spiaggia fino all'entroterra, che sono i famosi tordelli pietrasantini. Per Santa Maria, per Ferragosto, diciamo, vengono organizzate cene di gruppo, per lo più i bagni soprattutto si riempiono di feste che insomma diventano danzanti anche in poco tempo, e il tordello, che è questa pasta ripiena, una sorta di raviolo ripieno di carne, che è un piatto tipico chiaramente della Lucchesia, ha come peculiarità comunque il fatto che ogni comune, ogni provincia della Toscana stessa lo propone con qualche variante, e che può essere un'erbetta aromatica piuttosto della bieta, piuttosto che un tipo di carne rispetto a un'altra, ma comunque resta il fatto che è sempre questo raviolo di pasta ripiena condito con ragù di carne. Poi Filippo, anche, prego, quindi, prego. No, anche noi quel giorno lì ci attrezzeremo e ci adopereremo per fare una cosa un po' particolare, diversa dagli altri anni. Ecco, devo ricordare che in Versilia, nei bagni dove ormai si mangia, in tantissimi bagni si mangia, si fanno i gavettoni quel giorno lì, se ben ricordo. Sì, delle bande intere cominciano la mattina a saccheggiare i bagni, e comunque è un'abitudine che, se non degenera, diciamo, in qualche scontro sgradevole, è anche divertente. Senti, insomma, tordelli, oltre i tordelli, tu cosa proponi? Di solito questo pranzo che tu hai detto, appunto, di Santa Maria, c'è qualche altra tradizione? Allora, no, noi principalmente come a Pietrasanta abbiamo l'abitudine di fare il tordello come piatto classico. Io principalmente poi quel giorno lì organizzerò una serata un po' diversa, perché sarebbe, è un'idea mia creare una sorta di tavola unica in bandita, dove la convivialità sarà un po' l'elemento principale della serata. Ecco, cercherò di mettere tutti insieme i miei ospiti per una sera a un tavolo unico, che mentre il ristorante è piccolino, quindi chi lo conosce sa che non sarà poi così facile, ma insomma cercheremo di creare questa grande tavola, e riporterò per quel giorno lì sì i tordelli, che proporrò in tre versioni, perché noi li facciamo anche li proponiamo con il burro della Normandia e un mantecati al parmigiano, ma per quel giorno lì li faremo ancora più puri con l'olio delle nostre colline e parmigiano che prendo dal mio amico Anselmo Fornovo. Senti, quindi tre tipi di tordello, poi? Sì. E poi quel giorno lì mi butterò proprio, organizzerò una serata molto tradizionale, quindi acciughe marinate, che sono delle acciughe che a un onore al santo San Filippo, che lavoro con molta soddisfazione, le faremo marinate come usa dalle nostre parti, quindi aglio, olio, un po' di prezzemolo, e sono acciughe sotto sale fantastiche. Le serviamo anche queste con un pochino di pane caldo e burro. Poi servirò un piatto che da me è impossibile non avere, che sono le polpettine, sono polpettine di carne che vengono fatte al forno con i capperi e il pomodoro. Passeremo al tordello e poi, come piatto secondo, probabilmente andremo con un vitello tonnato. Riporterò sulla tavola un piatto che a volte è un po' dimenticato, ma che se fatto con le dovute attenzioni e valorizzando la maionese al punto giusto, viene veramente dà molte soddisfazioni. Poi è caldo. Con cosa chiudiamo? Con cosa chiudiamo? Chiudiamo con un piatto divertente che abbiamo rimesso nel menù quest'anno, ed è una rivisitazione di una merenda di ragazzi. Facevamo il pane, burro e zucchero. Abbiamo reinterpretato questo piatto creando un pan brioche all'uvetta, ed accompagnato, una volta riscaldato, tostato con un po' di cannella, di zucchero alla cannella, verrà servito con un gelato di crema al burro. Beh, sai, io ho già fame, devo dire che mi ha già preso fame, solo che devo ancora rimanere qui un po', e poi diciamo che questo pane, burro e zucchero veramente mi ha fatto ricordare molte cose, anche se io al burro sostituivo il vino, mettevo vino, pane, zucchero e vino, quindi era la cosa che mi piaceva di più. Ma a te cosa piaceva? Maurizio, sentiamo Maurizio, tu qual era la tua merenda? La mia merenda, io facevo tre merende in realtà. Andavo da mia zia, perché era un bambino abbastanza cicciotto, che mi faceva un panino a salame, poi mangiavo le patatine da mia nonna e poi tornavo a casa a far merenda. Sono arrivato a 19 anni che ero 100 kg. E tu Daniela? No, io, siccome andavo a scuola dalle suore, buttavo tutto quello che c'era al refettorio, lo buttavo prendendo il cestino della spazzatura, arrivavo a casa alle 4 morta di fame, mangiavo una pizza del panettiere e il budino che mi faceva mia nonna con dentro le noci. Budino e noci. Andrea, tu? La mia era una merenda molto semplice, ed era del pane con il cioccolato, asciuttissima. Infatti poi entravo in casa, mi attaccavo al frigo per bere una bottiglia d'acqua. Poi, quando ho cominciato a confondere la bottiglia d'acqua con quella del vino, mi sono appassionato al vino. Ma e da lì ho iniziato a bere vino. Io confesso un'altra mia merenda, era piadina, squacquerone e marmellata di more. Wow. Quindi era quello si è diventato gastronauta. Allora torniamo a Daniela. Sì, Pietrasanta è un posto ormai, come dicevo, diventato cult, e anche c'è un punto di riferimento della moda molto importante, c'è un negozio che fa tendenza a Pietrasanta, quindi stai attenta come parli. Posso dirlo? No, non posso dirlo. Sì, Zoe, lo dico io, guarda. Okay. Bene. Allora, parliamo di moda maschile e di moda femminile. Mettiamo femminile, questa volta femminile, dai. Un po' di moda femminile, sì. Allora. Insomma, noi donne possiamo molto invertire, quindi se di giorno ci siamo vestite magari più eleganti, alla sera possiamo mettere un bellissimo abito da sera, di quelli che piacciono molto a me, con le sneakers. Così alla fine siamo diverse, non siamo sempre eleganti dalla testa ai piedi, quindi una cosa... Un po' per sminuire, un po' per sdrammatizzare tutto quello che c'è sopra, cioè, quindi volante, cose soffici, colori chiari. E per uomo cosa facciamo, come li facciamo vestire questi allora, uomini? Questi uomini, visto che di giorno sono stati bravi, hanno messo la camicia, la sera gli facciamo mettere... La canotta. No, la canotta, Mauri, no. Anche perché, guarda, noi ci rifiutiamo di uscire con uomini più scollati di noi. Bene. Per cui canotta e scolla V, no. Però la t-shirt sì, gliela facciamo mettere, magari con un completo. Però possiamo sbottonarla un pochettino la camicia, no? Che fa caldissimo. Ma la camicia l'abbiamo lasciata a casa. Ma a mezzogiorno la sbottoniamo un po', no? Ritorniamo a Filippo, c'è ancora Filippo. Sì, ci sei Filippo. Sì, sono qua. Filippo, senti, Ferragosto, ecco, la sera di Ferragosto, c'è diciamo molta gente che va a cena, oppure diciamo che è un giorno che viene preso come gli altri in Versilia? No, è una serata molto particolare Ferragosto, tant'è vero che io alcuni anni fa non avevamo fatto la scelta di non aprire, perché Ferragosto generalmente l'usanza per l'appunto vuole che le famiglie si riuniscano, amici, nelle ville a Forte dei Marmi, piuttosto che a Marina di Pietrasanta sul mare. Devo dire che negli ultimi anni sta comunque tornando l'abitudine anche a andare a cena fuori, e devo dire che anche molti chiedono particolari, non so, se abbiamo dei menù apposta per quella sera, quindi alla fine ho scelto anche io di adeguarmi un po' alle esigenze della clientela, però creando apposta una serata diversa per quell'occasione lì. In fondo si tratta di un giorno all'anno, lo possiamo fare, insomma. Bene. È diventata un po' una sorta di Natale d'estate, no? Si potrebbe chiudere quasi con un panettone. Bene, Filippo di Pietrasanta, grazie e a presto. Grazie a voi. Bene, ora passiamo la linea alla regia. Spero che abbiate preso appunti di tutte queste i nostri consigli e osservazioni, perché appunto Ferragosto è alle porte, quindi farete bella figura se ci seguirete. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Continuiamo in questo viaggio attraverso le tradizioni. E io, quando devo così ricercare delle tradizioni in Sicilia, ho sempre un amico grande esperto, che tra l'altro è un grandissimo della pasticceria, perché parlo della dolceria Bonaiuto di Modica, e parlo di Franco Ruta. Buongiorno Franco. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Che tempo fa a Modica? Ma adesso si sta stabilizzando bene. E ci sono belle prospettive. Sì, anche per il cioccolato? Per il cioccolato di Modica? Sicuramente sì, perché il cioccolato di Modica, come tu sai e molti anche ascoltatori sanno, è più facile da consumare rispetto ad altre tipologie di cioccolato in estate, perché contiene meno burro di cacao, o meglio, non contiene aggiunte successive di burro di cacao. Senti, Franco, la cosa che mi ha incuriosito è che aver letto che è una tradizione siciliana, non so se appunto della tua area, perché in Sicilia ci sono aree ben distinte con delle tradizioni ben distinte, del gelu di Muluna. È una tradizione consolidata, con delle varianti piccolissime in alcune parti dell'isola e anche da noi chiaramente. Io preferirei chiamarlo, tanto per capirci, gelo d'anguria, perché non è fatto con il melone ma con l'anguria. Quindi è rosso, insomma. Ed è una Preparazione direi semplicissima e gustosissima, basta come sempre rispettare alcuni accorgimenti. Come gli ascoltatori sanno e come ama dire anche il conduttore di questa trasmissione, chiaramente anche questo è un esperimento ben riuscito e quindi è diventata tradizione. Il gelo dell'anguria, cioè perché rinfresca ovviamente, per questo è per il pranzo di Ferragosto? Sicuramente perché rinfresca, perché la preparazione è già dolce di per sé. Infatti io come esempio potrei dirvi che con un chilo di polpa d'anguria, che è già dolce, si aggiungono soltanto 50 grammi di zucchero e poi classicamente 90 grammi di amido di frumento. Noi preferiamo sempre in Sicilia usare l'amido di frumento e non la maizena perché ha un sapore più neutro. Ultimamente è molto in uso ed è molto buona utilizzare al posto dell'amido di frumento la farina di seme di carruba. Cavolo, c'ho la carruba. E ho ottenuto, e so che è una cosa che piace molto, e ho ottenuto questo sistema, questo liquido, poi chiaramente messo, come tutti sanno, sul fuoco, un fuoco leggero per far trasformare l'amido. A fine della cottura, tra virgolette, sempre cottura leggera, si aggiunge la zucca candita a dadini, si mette nelle formine e quando è tiepida si grattugia, e non me ne vogliono gli ascoltatori, del cioccolato di Modica sopra. Molti nel passato aggiungevano la cannella, io la sconsiglio perché disturba molto e toglie il profumo della polpa dell'anguria. La cosa interessante e delicata allo stesso tempo è che quando va servito freddo, evidentemente dopo che è stato in frigo, chiaramente va servito accompagnato da fiori freschi di gelsomino, e questa accoppiata del sapore dell'anguria con il profumo del gelsomino vi assicuro che è molto molto accattivante. D'altronde sappiamo tutti anche due note di colore, volevo dare una forse di colore ma un'altra che tiene conto dell'intelligenza dell'artigiano, perché molti parlano di intuizione dell'artigiano, io insisto che c'era un'intelligenza dietro che non era da meno ad altre cose. E per esempio tutti sapete che poi in questi pranzi del Ferragosto l'anguria in campagna non poteva essere nel passato refrigerata e quindi veniva imbracata e calata nelle cisterne per essere refrigerata. Ma la cosa più interessante che volevo dirvi è questa, ed è un ricordo mio da bambino: quando a tavola si apriva un'anguria nessuno poteva mettere mano per distruggerla, perché mio papà, dolciere, accuratamente la tagliava lasciando uno strato di polpa d'anguria. E se voi fate attenzione, l'anguria tagliata in questo modo ci dà il verde all'esterno, il bianco al centro e il rosso all'altro esterno, la bandiera italiana. Bene. Questa scorza d'anguria così tagliata accuratamente veniva fatta candita e poi era la classica decorazione, purtroppo ormai scomparsa, della cassata. Grazie Franco, come al solito fantastico. Grazie anche a te, buon Ferragosto, anche se manca grazie, qualche giorno. Grazie. Ciao. A voi tutti. Grazie. Bene, ora torniamo a voi, cari ragazzi, perché mi dovete riassumere il menù che avete raccontato a spizzichi e bocconi. Allora, perché i nostri radioascoltatori sono fermi in macchina con penna e taccuino, pendono dalle vostre labbra. Allora, per iniziare abbiamo il Paolini, che è praticamente un terzo di anguria frullata e diciamo due terzi di Franciacorta ghiacciato, un Bellini rivisitato. Poi il coniglio tonnato, o quello che volete tonnare, basta che non tonnate il vitello, questa è la nostra nostra posizione. Gaspaccio fatto con pomodoro, anguria e avocado, e friggete anche qualche cappero. Il sorbetto scorretto, e poi finisce Andrea con la sua famosa sbrisolona di Ferragosto. Io ho la ricetta segreta per la sbrisolona perfetta, che è, se volete vi do proprio le dosi perfette, sono proprio, 200, sì, proprio suor Germano, darle, vai. Così non sbaglio, sono 200 grammi di farina 00, 120 grammi di burro, 100 grammi di nocciole anziché le mandorle, perché sono più buone, secondo me sono più gustose, la scorza di due limoni e 60 grammi di zucchero bianco. L'importante è non impastarla troppo, cioè devono venire fuori dei sassolini di pasta frolla, ok? E mettete al centro della tavola una bella ciotola di zabaione precedentemente ghiacciato, e non usate i piatti, ma andate a intingere direttamente così, e poi tutti in pineta. Beh, devo dire che cari gastronauti che ci avete seguito, che vi abbiamo dato delle diete molto ferre, siamo stati molto attenti al peso, perché sì, sicuramente dopo Ferragosto bisogna tornare a casa e bisogna mettersi sulla bilancia, e credo che questi pranzi che vi abbiamo raccontato, escluso l'anguria finale che ci ha raccontato il nostro Franco Ruta, che ha zero, si sa benissimo che ha zero calorie, quindi tutto il resto è stato molto pesante, però credo che ci siano state così delle cose sfiziose che potete fare fare direttamente voi, sorprendendo anche i vostri amici. Ma io voglio chiudere con questa canzone di Jovanotti, perché dà proprio l'idea della città vuota e della gente che sta correndo verso il mare o verso i monti o verso la campagna, sperando che magari a casa rimangano veramente in pochi. E io vi auguro buon Ferragosto, perché la prossima puntata sarà domenica prossima, e quindi Ferragosto sarà già superato, però il 16 è la festa di San Rocco, 16 agosto. Non voglio ricordare, perché c'è un detto romagnolo che riguarda i caponi, ma forse è meglio di no, perché sarei probabilmente censurato. Linea alla regia, e quindi vi saluto tutti appunto con questa canzone bellissima di Jovanotti. Luna di città d'agosto, che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena mentre sei girata verso il mare in questa nottata serena. Vai, dille che sto bene, di non pensare a me, di lasciar perdere. Il vento soffia, il tempo passerà. Palazzi e strade come scenografie di uno spettacolo che è andato male, coi ballerini che tolgono il trucco per cominciare a ritornare a sognare. Luna di città d'agosto, raccontami un'altra bugia, fammi riscaldare davanti al fuoco caldo della malinconia. Va e dille che sto bene, di non pensare a me, di lasciar perdere. Vai, dille che sto bene, di non pensare a me, di lasciar perdere. Il vento soffia, il tempo passerà.